Quest'estate Sicilia. No, quest'estate Sardegna. Camper, bici, cane. Moto e surf. Sui traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. E se prenoti entro il 31 luglio, ti portiamo in Sardegna a partire da 31 euro. E in Sicilia da 39 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Ma affrettati, ci sono solo 3.000 posti disponibili. Prenota subito su gnv.it, agenzie di viaggio, o al nostro contact center. Importi riferiti ad adulto in passaggio ponte sulla linea Genova-Porto Torres e sulla linea Napoli-Palermo. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, leggermente in ritardo questa sera, siamo qui con voi per questo nuovo episodio di Quando eravamo futuro. Questo ritardo è dovuto da motivi di traffico che insomma non si sono ancora risolti, speriamo si risolveranno nei prossimi minuti, e quindi intanto saluto Davide Gatti. Buonasera a tutti, eccomi qua, io ho combattuto il traffico ma ci sono. Hai combattuto, chi ha vinto? Ho vinto io. Tu vinci sempre contro il traffico. Sono partito alle 5:30 però. Ah vabbè, allora voglia vincere contro il traffico, insomma. E, Davide, diciamo appunto, cercheremo un po' di guadagnare un po' di tempo cercando insomma di dare il tempo a Carlo di arrivare, perché lui comunque da Milano a Brescia con il diluvio universale, più traffico del solito, insomma ci potrebbero essere dei problemini, ma sappiamo insomma che dovrebbe essere veramente a momenti, ma comunque. Intanto Davide, come va? Parliamo del canale di Survival Hacking, che vedo insomma che a parte i regali, gli unboxing, insomma tutte le cose carine, vedo insomma che si sta creando proprio una community bella forte, insomma. Ah sì, guarda, ti dirò che allora io ho sempre fatto contenuti un po' vari, sempre un po' stando intorno all'elettronica, e ultimamente vedo una certa crescita, e poi mi sto orientando su una tematica che a me piace molto e che sta curiosendo molte le persone, attirando moltissimo. Vedo l'ultimo video che ho fatto con Carlo, dove c'è Carlo che mi dà delle cose, delle schede arcade di videogiochi da bar, ha riscosso notevole successo nella media dei video, e tutto quando si parla di arcade vedo che c'è un risveglio. Allora la cosa mi sta attirando, e poi per casualità in questo momento ci sarà una live che farò probabilmente o questo fine settimana o questo fine settimana. Cioè, vedo che c'è un grosso range di scelta. Tra sabato e domenica, comincio già a anticipare per chi è in ascolto, sarà una puntata proprio dedicata agli arcade, perché me ne sono arrivate una 6 o 7 o 8, un po' di scatole che mi hanno regalato, e le vedremo in live, magari le vediamo anche accendersi, vediamo anche magari qualcosa se funziona qualcosa, certo. Vediamo. Vabbè, infatti noi siamo curiosi, noi seguiamo. Quanto sei arrivato? Sono arrivato a 20, non mi ricordo. Porca miseria. Cioè, la scala reale è finita, non c'è più oramai. No, adesso aspetta che mi cogli impreparato su questa domanda così estopica. Comunque sono 24.262. Dai, che comunque secondo me entro l'estate penso che 50.000 ci arrivi. C'ho sta sensazione. Perché poi dopo, comunque io ho visto in generale che la crescita è sempre abbastanza esponenziale quando si innesca un certo flusso, no? Poi è ovvio che c'è l'interesse per un certo tipo di settore come il tuo, che comunque quello dello smanettamento, no? Del saldatore, delle cose, insomma. Poi non so quant'è il bacino d'utenza globale, però insomma diciamo che stai a fare un bel lavoro, sono contento. Sì, sì. Diciamo che siamo sempre in una nicchia, parliamo già solo l'essere d'Italia è una nicchia. Poi dopo. Beh, questo in generale YouTube Italia è così, no? Cioè, nel senso, poi a maggior ragione. Però vabbè, che si inizia. Ma noi siamo qua per divertirci, non siamo infatti. Ci facciamo la nostra nicchia, l'importante è che arrivino i salami, arrivino le i salami sono bellissimi, i salami. Qualsiasi cosa di commestibile, anche delle schede arcade, ma anche un salame è bene. Allora ragazzi, prima di tutto mi permetto di dire, questo lo dico in generale, che quando, allora questo è un periodo, noi abbiamo fatto un appello lo scorso mese, abbiamo ricevuto tante risposte, tanti feedback da questo punto di vista, perché ci ha fatto veramente piacere. È stato un mese particolare quello di novembre per Runtime Radio a livello proprio di entrate, quindi ovviamente successivamente anche di costi, però insomma ha visto molto bella la risposta. In generale quando mi scrivete che avete mandato una donazione, non vi dovete mai preoccupare dell'entità della donazione, perché in realtà, cioè ragazzi, è una cosa che fate in più nella vostra vita, che non è dovuto e tante cose. Quindi per noi comunque il contributo è sia morale che da un punto di vista poi magari anche più pratico, no? Più economico. Però diciamo che quello che è stato il contributo, e se non è l'entità economica e l'entità morale, comunque alla fine dà sempre uno stimolo, dice vabbè dai, certo, sto mese grazie a voi faccio comunque uno sforzo. Poi devo dire che insomma le cose sono, grazie alla generosità di tutti, si sono rimesse in sesto. Quindi ringrazio Cristiano e tutte le persone che comunque in questo periodo stanno facendo, hanno fatto delle donazioni, tra l'altro hanno abbiamo quello che potevano, esatto, senza proprio nessun problema, anche una pacca sulla spalla ci va bene. Esatto, e diciamo che abbiamo anche riaperto il canale di Hoppix, impronunciabile, però insomma poi ragazzi, casomai nelle varie situazioni, nelle varie occasioni vi linkeremo magari i singoli prodotti, perché il link che è stato prodotto per questo shop è assolutamente ingestibile, quindi o ci permettono di cambiare l'URL oppure sarà proprio a voce, è proprio complicato dirlo insomma. Però in generale c'è anche la maglietta di quando eravamo futuro, che abbiamo linkato nella canale ufficiale di Runtime Radio su Telegram, quindi cercate Runtime Radio, entrate nel canale che lì vi teniamo aggiornati sempre su tutto quello che succede, e lì c'è la maglietta di quando eravamo futuro, insomma se vi interessa ci fate compagnia e ci aiutate, insomma che è una cosa. Poi noi durante quella scorsa settimana abbiamo chiesto, in realtà noi ce l'abbiamo un piano editoriale abbastanza abbondante, però anche per avere un po' un feedback da parte vostra abbiamo chiesto quali potevano essere gli argomenti che vi sarebbe piaciuto ascoltare in quando eravamo futuro. E ad esempio Lucio ci dice che quando le MBT, io suppongo siano le mountain bike, che c'era l'immagine della bicicletta, erano il futuro. Sì, sì, ma anche forse le altre, quelle come si chiamano, quelle piccoline, quelle che avevano quelli di ET, i ragazzi di ET, che bici erano quelle? Non lo so, però non sono ferrato sul tema, quindi anche qui come nel tema che ci propone poi anche Gianluca, ossia il rock progressive italiano degli anni 70, servirà insomma qualcuno che ne capisce di questa roba. Saremo lieti ovviamente di fare una puntata del genere se troveremo chiaramente le persone che possono aiutarci, insomma. Mentre che Cristiano, diciamo, ci suggerisce di fare una puntata sull'elettronica in generale, TV a valvole, tutti insomma. Però diciamo che di questo tipo di puntate in realtà ne abbiamo fatte già. Ne abbiamo fatte specifiche e in tante piccole puntate ne abbiamo parlato, insomma alla fine secondo me l'argomento è già stato abbastanza trattato. Poi se c'è un qualcosa proprio nello specifico che è inerente all'elettronica di quel periodo, cioè quel tipo di oggetto, proprio quel tipo di cosa, magari ci si può sempre tornare sopra. Però in generale insomma andate su Spreaker, cercate quando eravamo futuro, vi ripescate tutto quello che è ovviamente il trascorso basso della, insomma, del nostro podcast, e lì troverete sicuramente delle insomma le puntate a cui, che abbiamo dedicato sia alla televisione, alla radio, abbiamo fatto una bella puntata sulle radio in generale, poi sui baracchini, sì, sull'elettronica, sui baracchini, insomma, vabbè, quindi alla fine. Poi diciamo che c'è stato anche diciamo in generale una commossa partecipazione anche a posteriori, anche in privato, su quella che è stata la puntata di Spazio 1199, e questo ci fa piacere perché noi diciamo in puntata con Claudietta, insomma, diciamo, io pensavo di ricordarmelo solo io sto Spazio 1199, invece comunque alla fine Gianluca ci dice che è contento perché gli abbiamo fatto rivenire la voglia di riguardare Spazio 1199, che tra l'altro non è invecchiato neanche troppo male, insomma. Sì, lui temeva di trovarsi di fronte a una cosa invecchiata e invece è rimasto sorpreso, come lo sono rimasto anch'io, del fatto che non era invecchiato così tanto. Poi c'è Daniele invece nel gruppo di Tecnopils che dice: sto ascoltando Un tuffo al cuore, vabbè, sì, poi penso che sia quello, insomma, la cosa più più importante. Diciamo che invece poi abbiamo chiesto alle persone di dirci, insomma, magari di mandare un qualcosa che riguardava magari la loro esperienza rispetto alla puntata che faremo questa sera, però abbiamo ricevuto soltanto un audio. C'è stata una partecipazione, io ve lo faccio sentire subito quest'audio perché è abbastanza importante. Intanto mi sa che forse buonasera. Eccolo, io ho traccheggiato fino all'inverosimile perché insomma scusate, purtroppo quando piove a Milano si blocca tutto, come quando fuori piove, questa la capiscono solo quelli che hanno le dita appiccicate di carte da gioco, insomma. Potrà confermarlo anche il buon Davide, che credo che abbia avuto le medesime esperienze, ma quando piove a Milano, io lavoro in centro ed è un'impresa ardua e disperata, cioè. Se poi nevicasse, nevica, buonanotte. Beh, diciamo che però lui è uscito alle 5, quindi il problema non gli è esposto. Sì, io esco un pochino più tardi. Comunque, dicevo che poi alla fine per la puntata di oggi abbiamo detto, cercando di raccogliere magari qualche testimonianza, qualcuno ha mandato magari dei feedback o roba del genere, ha detto: vabbè, ma mandate degli audio. Sì, poi non l'hanno mandati, però una persona l'audio l'ha mandato, adesso lo faccio sentire. Allora, siccome questa sera seguirò volentieri il programma su Runtime Radio, volevo mandarti il mio contributo per la serata. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Grande Deborah, che ringraziamo. Intonata, non si può dire che non sia. Applausi. Assolutamente intonata, ma poi il finale è meraviglioso. Vabbè, e quindi insomma, Carlo, io direi che gli rendiamo omaggio a questo punto a Deborah. Sì, direi di sì. Ed eccoci qua, ragazzi. Sì. Ed eccoci qua. Intanto permetti di salutare tutti quelli che sono in chat: Vincenzo, Gianluca, Deborah, ovviamente. Oddio, vabbè, Vincent Valentine. Se mi sei. Il monitor, ragazzi, che succede quando il monitor si spegne da solo? È una brutta storia. Tra l'altro, c'è un audio. esatto, che adesso proviamo a mandare, così però molto alla cieca, perché ragazzi non lo posso. Stavo ascoltando io, però no, c'è un contributo. Si può fare? Si può fare? Ok, si può fare. Allora, vai, lo... allora vai, vai. Lo faccio, ragazzi, attenzione, il nostro rischio e pericolo. Buonasera a tutti. Allora, un piccolo contributo da parte mia. Nel 96 l'ultima stagione dei Giochi Senza Frontiere l'hanno fatta alla Reggia di Stupinigi, alla palazzina di caccia di Stupinigi, vicino a Torino. Confermo. E io facevo il portoghese, o meglio, non è che mi sono imbucato senza pagare, semplicemente sono andato come spettatore, mi hanno dato una maglietta verde e da lì in poi dovevo tifare Portogallo. Beh, questo è interessante, perché in realtà poi alla fine stiamo parlando di uno show televisivo. Noi, cioè io perlomeno che ho vissuto a Roma, ne ho frequentati tantissimi di studi televisivi, perché ci pagavano poi fondamentalmente, quindi andavo lì a Milano uguale a 50.000 lire a botta, cioè nel senso io ovviamente Fininvest, tu Rai probabilmente, no ma anche Fininvest e Rai, però sì, anche Rai Fininvest, poi c'era pure quello, ho fatto il gioco dei 9, non era Rai, no, questi qua, cioè io comunque tutti giunto, insomma alla fine, sì, esatto, quindi alla fine comunque bene o male tu andavi lì e questo diciamo ci sta. E poi in realtà ci sono anche di retroscena su questa cosa di cui parleremo questa sera, però io direi di partire un po' dal principio, no? Perché sì, siamo per raccontare una storia che è per quelli della mia generazione, forse per quelli anche della generazione dopo, in qualche modo ha rappresentato un momento anche affettivo importante, perché c'era un motivo per cui ci si riuniva d'estate una volta alla settimana davanti al televisore, che era un po' questa cosa che ti portava curiosità dall'altra parte, ti portava senso d'appartenenza, partecipazione, competizione, allo stesso tempo divertimento proprio, perché comunque era un programma a volte veramente troppo divertente. Io ricordo proprio le risate di mia madre, che proprio squillanti, quando succedevano delle determinate cose su questo. E chiaramente questo è l'episodio a cura di Carlos Santagostinus. Grazie per la linea, Simone Pizzi. Prego. Tanto qui no, fioccano televisori in chat, vedo. Scusate ancora per il ritardo, ma sono arrivato giusto in right on time, come si dice, no? Giusto in tempo per l'introduzione di questa puntata, quindi ormai è chiaro di cosa stiamo parlando. Giochi Senza Frontiere, per tutti quelli della nostra generazione, sicuramente è stato un programma fondamentale, ma anche delle generazioni precedenti alla nostra, perché è un programma che, ricordiamo, è andato in onda per più di 20 anni sulla televisione nazionale italiana, e ha rappresentato un picchi di ascolto incredibili. Poi andremo magari a dettagliare anche il qualche dato dopo che ho scritto nel documento. Quindi inizierei innanzitutto a fare una, come mio solito, diciamo, una piccola storia del programma, cioè da dove nasce, perché nasce, cos'è, e dopodiché invece magari approfondiremo poi i nostri ricordi personali e quindi le nostre esperienze nella visione di Giochi Senza Frontiere, e racconteremo magari, non so se tu Davide o Simone avete mai visto dal vivo anche un Giochi Senza Frontiere. No, dal vivo no. Io sì, vigevano nel 1991. Sono andato a fare il pubblico. Se trovassi la registrazione di quell'episodio, mi si vedrebbe nel pubblico a tifare Vigevano. Va bene, ma non ti riconosceremo. No, sono tanti chi fa e tanti anni fa. Da dove nasce Giochi? Allora, prima abbiamo sentito nella sigla, è stata preceduta dalla sigla dell'Eurovisione, perché Giochi Senza Frontiere, il titolo nasce in Francia. Adesso la mia pronuncia del francese fa ancora più schifo di quella inglese, quindi lasciamo perdere. Anche se ultimamente ti ho visto districarti in interviste in inglese, insomma, con una certa. Sì, ma io non è che non so parlare inglese, lo parlo, è la pronuncia che fa schifo. Che fa schifo. Poi mi capiscono uguale, però fa niente, capiscono anche che sono italiano, perché ho una pronuncia da italiano, proprio tipo il mafioso dei film dei americani, insomma. Quindi però lo parlo inglese, lo parlo e lo capisco, ma è la mia pronuncia che è brutta. Ma detto questo, andiamo avanti. Una cosa che però non sanno in molti, non so neanche se lo sapete voi prima di leggere il documento che ho redatto, non so se l'avete scoperto nel mio documento o se già lo sapevate, che in realtà Giochi Senza Frontiere ha una paternità italiana, perché in realtà Giochi Senza Frontiere è un programma che è stato ispirato da un programma televisivo precedente che ha avuto un immenso successo, solo che è un programma che si ricordano in pochi. Noi non ce lo ricordiamo sicuro perché non fa parte della nostra... Non eravamo vivi ancora. No, eravamo ancora nel mondo dei sogni dei nostri genitori o di uno dei nostri nonni. Il programma però ha avuto un successo all'epoca incredibile e si chiamava Campanile Sera. Allora, fermo qua. Purtroppo, ragazzi, l'audio fa schifo, ma cioè... Stiamo parlando del 1959, quando esordì questo programma. Va già bene che ci sia un audio. Esatto. Esattamente il 5 novembre del 59, e questo esordiva questo programma sul programma nazionale. Il programma nazionale sarebbe quella che adesso noi chiamiamo Rai 1, però all'epoca esistendo solo quella, certo, un solo canale televisivo, si chiamava Programma Nazionale. E nasce questo programma che adesso chiameremo game show, quiz show, cioè un programma che aveva lo spettacolo in cui bisognava gareggiare ed era condotto da un giovanissimo Mike Bongiorno, che praticamente è un padre fondatore della televisione italiana, con tutto quello che ha fatto, che ha inventato, insomma, nel corso degli anni. E oltretutto nelle prime puntate era anche affiancato ad altri due ragazzi, di cui uno Renato Tagliani non ce lo ricordiamo molto, ma l'altro sicuramente, che è il grandissimo Enzo Tortora, che esordì in questa trasmissione, diciamo, come aiutante di Mike Bongiorno, di cui Tortora parleremo in una puntata di Quando Era un Futuro, perché si merita una puntata a parte l'affetto proprio mio, che per me era mio zio, era mio zio praticamente, cioè nel senso. sì ma è loro zio di tutti praticamente. Almeno io, anche Portobello è un'altra trasmissione a cui sono affezionatissimo, quindi quella sicuramente se ne parlerà in uno dei prossimi episodi. E comunque il gioco in pratica era un programma televisivo in cui gareggiavano delle piccole città, paesi italiani, uno contro l'altro praticamente. E quindi il programma iniziava spesso con un'introduzione del paese per farlo conoscere, quindi serviva anche per far conoscere i paesi dell'Italia in un momento in cui magari tutta l'Italia non era ancora così diciamo conosciuta, o ricordiamoci che non è che l'Unità d'Italia sia così esista da così tanto tempo, e si veniva poi da un periodo di guerra, da un periodo di passaggio poi dalla Seconda Guerra Mondiale, dal ventennio, il fatto del passaggio alla Repubblica, insomma era tutto una costruzione ancora dell'Italia, no? I famosi anni del boom. Sì. E questo serviva, anche questa trasmissione, anche per far conoscere agli italiani l'Italia stessa, che parlavano ancora tutti dialetto. Già ancora oggi nel 2022 sentiamo, no, i dialetti, che anche se si stanno via via comunque perdendo nelle nuove generazioni, però sono ancora presenti, diciamo che si stanno diluendo più che perdendo, insomma, certo. Senso, poi ci sono gli accenti, diciamo che negli anni 50 c'era la possibilità che una persona di Milano non capisse una persona di Napoli, cioè proprio esatto, assolutamente corretto. Tra l'altro, anche, scusa, stando allo stesso nord tra Milano e Brescia, giusto per ok, certo no, comunque in particolare i milanesi non capivano i bresciani. Sì no, ma ci sta. In chat ho messo, se volete, la parte introduttiva della prima puntata di Campanile Sera, dove c'è Mike Bongiorno che spiega, diciamo, il programma, perché c'era questa cosa di spiegare, ovviamente era tutta una novità, no? Allora, sì. Tra l'altro, se non vado errato, pure Campanile Sera è a sua volta, diciamo, prende l'eredità di un programma radiofonico che più o meno, che insomma, si chiamava Il Gonfalone, era radiofonico, anche se era leggermente diverso, ma comunque iniziava andava anche lì a mettere in, diciamo, in conoscenza di diverse entità geografiche dell'Italia con le loro culture e peculiarità linguistiche diverse che si scoprivano via via tra un paese e l'altro, diciamo, ecco. Comunque il programma, questo Campanile Sera, ebbe un successo clamoroso, clamoroso. Venne trasmesso per più di 100 puntate e come diremmo oggi, questo successo lo fece diventare un format, no? Già all'epoca si facevano i format, sembra una cosa moderna, no? Il format, invece già in quegli anni, in quei primi anni della televisione, si vendeva il format, cioè siccome questo programma aveva avuto successo in Italia, allora l'ideatore, insomma, del programma vende il concept, il format alla televisione francese, alla televisione inglese e così via. Infatti in Francia questo programma viene chiamato Interville, anche qua non chiedetemi la pronuncia francese, Intervilles, non so pronunciarlo in francese. Qualcosa, e adesso francofoni mi... No, ma infatti sì, insultiamo le altre lingue, certo, va bene. Salutiamo i francesi che ci ascoltano, naturalmente. E questo programma comunque ebbe anche lì un clamoroso successo e lo ebbe anche in Inghilterra. In Inghilterra fu chiamato It's a Knockout, è un KO praticamente, no? It's a Knockout. Interville fu l'ispiratore di Giochi senza frontiere. Quando l'idea del programma fu addirittura del presidente dell'epoca francese, Charles de Gaulle, che voleva creare un programma dove aiutasse le nazioni europee a conoscere. Ricordiamo che lì siamo nel 1965 quando nasce Giochi senza frontiere e l'idea dell'Europa era qualcosa che si iniziava a far strada nei governi europei, era qualcosa di fortemente voluto. Quello che noi abbiamo adesso, che molti non vogliono, all'epoca era qualcosa che, in cui si aspirava a creare un'Europa unita e lo si è voluto per tanti anni. E Charles de Gaulle voleva con un programma televisivo aiutare soprattutto, per esempio, i giovani francesi a fare amicizie, diciamo, con i tedeschi, no? Lui pensava per stringere più rafforzare l'amicizia tra Francia e Germania. E però questo venne poi allargato, questa idea dei giochi, anche ad altri paesi, quindi era un'evoluzione di quello che era il programma Campanile Sera, che era tra i paesi della singola nazione, qualcosa che facesse interagire i vari paesi di nazioni differenti europee e quindi le stesse nazioni poi che si mettevano in gara uno con l'altro. Proprio per stessa missione degli ideatori di Giochi senza frontiere, l'ispirazione era proprio quella di Campanile Sera, tanto che vabbè, in Francia venne chiamato Giochi senza frontiere, Jeux sans frontières, che poi in Italia fu tradotto come Giochi senza frontiere, e anche nel resto di Europa quasi tutti ebbero lo stesso nome tradotto nella loro lingua. Ma per esempio in Inghilterra rimase addirittura il nome precedente, Eastern Knockout, cioè Eastern Knockout, che era l'edizione inglese di Campanile Sera, diventò Giochi senza frontiere mantenendo lo stesso nome, cioè fu ancora chiamato per non creare confusione, giustamente. Esatto, perché gli inglesi sai che sono molto esatto. Hanno questa abilità, se c'è una cosa non la cambiano più, no? Fine. Quindi quella rimane. Se c'è una cosa che non funziona, continuano a mantenerla. Esatto, assolutamente. Se c'è la guida sbagliata, continuano a guidare dalla parte sbagliata. Per non parlare del sistema di misura imperiale. Esatto. Se usano un sistema di misura decente, continuano, perché è quello giusto per loro. Vabbè, dai, lasciamo stare, che se ci sono qualcuno che ci ascolta in inglese ci dirà: au. Quindi la nascita di Giochi senza frontiere è questa. Prima edizione andò in onda nel 1965 e poi per ogni estate, in ogni anno ininterrottamente fino al 1982. Dopodiché venne sospeso per qualche anno, non tanti, riprese nel 1988 e andò avanti fino al 1999, ultimo anno di trasmissione di Giochi senza frontiere, e ormai sono 23 anni che viviamo senza più questa trasmissione. Poi magari di questo ne parleremo dopo, che se non sbaglio hai anche una clip audio dopo, giusto? Oppure linkeremo, parleremo di questo più tardi, dei protagonisti. Sì. Okay. Allora, ovviamente ho altre due clip audio. Una è un po', diciamo, degli estratti audio in generale, insomma, su Giochi senza frontiere nell'epoca anche un po' più moderna, perché stiamo parlando, insomma, del colore, quindi sarà stato anni 80 probabilmente. E poi sì, considera che Giochi senza frontiere era già a colori nel 1973, perché Giochi senza frontiere, sì, ma non da noi, però no, anche da noi, solo che noi molti non la vedevano, perché in Italia ufficialmente la TV a colori è arrivata nel 78, come vi ho detto in altre puntate. Noi arrivamo tardi con la standardizzazione, ma siccome Giochi senza frontiere era una trasmissione europea prodotta dall'ente europeo, lo stesso che fa l'Eurovision, per intenderci, alla stessa produzione dell'Eurovision Festival, era già prodotto e trasmesso a colori anche in Italia. Però in Italia lo vedevamo in bianco e nero, perché tutti avevamo una televisione in bianco e nero, fino a quando non abbiamo avuto una televisione a colori. Quindi era già trasmesso in Italia, anche in Italia, a colori. Magari qualche fortunato che aveva una televisione tedesca di importazione, in Germania avevano già il sistema PAL di trasmissione, l'avrebbe potuto vedere a colori già dal 73 fino al 78. Poi dopo il 78 la cosa fu standardizzata, quindi anche da noi furono, diciamo, trasmesse le trasmissioni colori. Infatti, non so se te lo ricordi, per esempio, appena prima che venisse standardizzata e che quindi la RAI iniziasse le trasmissioni a colori, c'erano televisioni come Capodistria e Tele Monte Carlo e la Svizzera Italiana, l'RT, che trasmettevano già a colori. E qualche fortunato ricco che possedeva la televisione a colori aveva già queste trasmissioni a colori prima del 1978. Tra l'altro noi ricevevamo tranquillamente la Svizzera, era possibile anche vederlo lì, Giochi senza frontiere. Sì, più al nord Italia, però. Sì. A differenza di Tele Monte Carlo, che arrivava agilmente fino a Lazio, la Roma, insomma, probabilmente anche più in là del territorio nazionale, perché poi dopo comunque hanno avanzato, diciamo, questo tipo di discorso. Però la televisione svizzera io l'ho sempre vista quando andavo, per esempio, al nord o in vacanza o in settimana bianca o via dicendo. C'era la televisione svizzera che poi mi stupivo che parlassero italiano, insomma. Cioè. La televisione svizzera hanno in realtà tre televisioni in tre lingue diverse. Sì, beh, certo. C'è l'RT che trasmette in italiano, RTF, l'RT. Comunque, alla prima edizione dei giochi parteciparono il Belgio, la Francia, la Germania dell'Ovest, perché ricordiamo che era divisa in due Germanie all'epoca, certo. Italia. E nel corso degli anni furono 20 nazioni che si avvicendarono nelle varie edizioni di Giochi senza frontiere, tra cui l'Italia è stata l'unica nazione che ha partecipato a tutte le edizioni estive, cioè quelle ufficiali della manifestazione. Perdendo sempre poi, ricordiamo. No, non è vero che abbiamo sempre perso, no, ne abbiamo vinte parecchie, dopo vi dico i dati. Ecco, l'Italia ha vinto 4 volte. Nel 70, nel 78, nel 91 e l'ultima, quella del 99. Che era in casa, diciamo. Diciamo, sì, esatto, l'ultima era in casa. Dal 66 all'82, quindi per quasi tutta la durata della prima edizione dei Giochi senza frontiere, quella con il più alto numero di spettatori, gli arbitri ufficiali furono due nomi che noi ci ricordiamo tutti: Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, che nonostante i nomi italiani in realtà sono svizzeri entrambi. Quindi sia Gennaro Olivieri che Guido Pancaldi sono svizzeri. e ricordiamo che Gennaro Olivieri parlava praticamente francese, infatti anche quando parlava italiano aveva quell'accento francese, sì, molto francese, ci ricordiamo un, deux, trois, un, deux, trois. Esatto. però comunque parlava italiano, soltanto che c'era, sì, no, lo parlava perché era svizzero, l'accento quindi fortemente francese, che poi in realtà lo ha caratterizzato tanto, cioè nel senso comunque l'ha fatto anche entrare proprio nella memoria della gente, anche per quello, insomma, no? Perché, insomma, alla fine è uno che conta, uno, due, tre, insomma, cioè, tutto sommato. Ci furono anche delle edizioni, 20 edizioni invernali, che cambiarono leggermente il nome, non si chiamavano Giochi senza frontiere, perché Giochi senza frontiere era prettamente estivo come gioco, perché i giochi erano fatti all'aperto con l'acqua spesso, eccetera, quindi, le edizioni invernali si chiamarono Giochi sotto l'albero e Questa pazza pazza neve, in Italia ovviamente, però in altre nazioni, che titolo stupido, vabbè, sai che noi eravamo esperti in quegli anni di titoli stupidi, ma lo siamo ancora, lo siamo ancora al cinema. Comunque il successo della trasmissione superò qualsiasi previsione, perché in tutta Europa, ma per dire, la puntata col picco più alto di ascolti fu quella del primo luglio del 76, con 100 milioni di telespettatori, e registrò il record ascolto dell'intera storia dei giochi diffusi in Eurovisione, quindi anche del calcio, di tutti, 100 milioni, cioè lì far vedere una lattina di Coca-Cola era, cioè, valeva miliardi. Sì. Però non c'era ancora quel concetto, non c'era, però forse c'era qualche cartellone al lato pista, sai, queste cose qua, no? Che magari, come nello sport in generale, no? Comunque, quello che ho accennato all'inizio, questo era un programma prodotto dall'Unione Europea di Radiodiffusione, no? Esatto. UER, così come abbiamo, dato che ne abbiamo parlato già recentemente, lo ricordiamo, no? Visione, esatto. Ed era introdotto ovviamente, come abbiamo sentito, dal famoso Te Deum, no? Insomma, grande classico, forse era la prima volta che noi, solo coi campionati di calcio, ci ricordava, o le Olimpiadi, no? Allora, vedevamo. Sì, allora io vorrei dire delle cose, cioè così a livello proprio mio, per de percezione anche un po' esperienziale, no? Perché poi in realtà, ecco, parto proprio da questa cosa che hai detto, cioè in generale, se io penso a me sotto alla rotonda, al cortiletto, a giocare a pallone con i miei amici, e sentivi il suono dell'Eurovisione, c'erano due i segnali che ti dicevano che tu dovevi andare a casa: la sigla del telegiornale, se vi ricordate, magari nei vicoli, nelle strade sentiva na, na, na, na, na, na, na. No, vabbè, no, quella è un'altra, adesso non mi viene la sigla del telegiornale, però quella del TG1, che comunque esatto, bravo, nuovo, che adesso l'hanno rifatta, remixata con la base, sì, me lo piace, finisce con la batteria adesso, vabbè, comunque, insomma. E poi c'era la sigla dell'Eurovisione, che di solito la sigla dell'Eurovisione era collegata ai grandi eventi, agli eventi importanti, esatto, ai momenti, esatto, in cui comunque c'era una certa partecipazione. In generale noi all'epoca eravamo abituati a vedere le competizioni tra nazioni con quella veste seria e importante, istituzionale, che potevano essere i giochi olimpici, così come potevano essere i mondiali di calcio. E Giochi senza frontiere, da questo punto di vista, ha spezzato un po' questo meccanismo e ha reso più familiare, più fraterno, diciamo così, il gioco con gli altri partecipanti, no? Poi magari chi giocava magari voleva la morte degli avversari perché voleva vincere lui, no? Però in generale la percezione di un qualcosa di così più giocoso, già il titolo stesso, Giochi senza frontiere, comunque in qualche maniera ti chiamava a quello che era lo spirito che dicevamo prima e che abbiamo detto anche nella puntata precedente, no? Perché l'Eurovisione nasce in un momento in cui c'era questa visione europeista, no? Cioè questa, sì, volontà di unificazione di popoli che oggi sono molto meno, oggi che è forse l'ora più triste, no? dell'esperienza europea, però siamo molto più uniti adesso, cioè siamo più capaci di interagire fra di noi di quanto non fossimo allora, no? Perché non c'era, cioè poi ragazzi, noi uscivamo da una guerra mondiale incredibile che a 20 anni, 30 anni di distanza ancora aveva le sue ripercussioni, no? Inevitabilmente, cioè anche perché è stata, cioè, una guerra che ha fatto milioni di morti in tutta Europa, un'Europa che si ricostruiva e si ricostruiva sotto un'idea, no? E questi progetti televisivi in qualche maniera avevano proprio uno scopo ideale, e Giochi Senza Frontiere secondo me ha funzionato proprio perché io da ragazzino, e questo vorrei, invito tutti magari a ricordare le proprie esperienze da ragazzino, magari anche a scrivercele o a fare un audio, perché io da ragazzino impazzivo per questa cosa. Quando c'era Giochi Senza Frontiere io ero felice, cioè non ero, non era una cosa, ah che bello c'è Giochi Senza Frontiere, ero proprio felice, mi mettevo lì davanti alla televisione, lo guardavo con mia madre, non so se c'era anche mio padre, no, mia madre, ridevamo, scherzavamo, perché chiaramente poi i giochi, soprattutto poi negli anni 80, cominciavano ad essere sempre più buffi, no, che ricordavano anche il videogioco poi, no, insomma, se... sì, e poi dopo ne parliamo anche di quello, okay. In coda, diciamo, l'ultima cosa, no, ok, quindi lo tralascio un po' questa cosa, però comunque la percezione era quella, cioè la bellezza di quella esperienza era comunque vedere queste situazioni. Poi vedremo verso la fine, comunque anche con l'intervento, e poi diciamo c'è un'intervista che io ho ristretto in poco meno di 2 minuti, dove secondo me è simbolica come intervista, perché racchiude il bello, quindi quello che stiamo raccontando adesso, e anche il negativo, no, di un qualcosa che comunque, cioè, oggi senti che c'è la mancanza, no? Cioè, nel senso, ma non c'è la mancanza perché ah che bello, ti ricordi quando c'era, ma proprio perché simbolicamente c'era un senso, no? Ecco, sì. Questo è un po' la mia esperienza era quella di sapere che quella sera d'estate c'era quella cosa e tu non vedevi l'ora che c'era, perché te andavi a vedere anche se l'Italia perdeva sempre. Non è vero che perdeva sempre, quello è un ricordo che hai tu probabilmente, ma abbiamo vinto diverse volte. Comunque sì, hai introdotto, magari con l'occasione introduco il personaggio che è Ettore Andenna è stato il conduttore televisivo, perché come parimenti all'Eurovision, oltre ai due arbitri che erano ovviamente i due svizzeri, erano i protagonisti di tutte le nazioni, perché erano quelli che decretavano poi la vittoria, i punteggi eccetera dei giochi, ogni nazione aveva il suo presentatore, e per la Rai, per l'Italia, avevamo, per la maggior parte, se ne sono avvicendati diversi, ma diciamo che uno che ha fatto quasi tutte le edizioni ed è fortemente legato alla trasmissione è Ettore Andenna. Che è colui che poi chiuderemo un po' la trasmissione col suo intervento. Ettore Andenna è un conduttore televisivo, è stato anche politico, ha fatto parte anche dell'Europarlamento per il Partito Socialista dell'epoca, no? Quindi, quello di Craxi, per intenderci, ecco. Al nord, non so, sicuramente io e Davide, che siamo di Milano e zone limitrofe, noi Ettore Andenna lo ricordiamo anche per le sue conduzioni su una televisione privata del nord Italia molto famosa, che era Antenna 3. Esatto. Perché lui è nato all'interno di Antenna 3 Lombardia. Antenna 3 era una televisione privata, una delle prime TV private, ed era una delle più famose TV private del nord Italia. E Antenna 3, lui faceva un programma che si chiamava La Bustarella, che era un... Beh, d'altronde era un socialista, quindi io volevo fare. questa era una battuta che negli anni 80 avrebbe fatto ridere tutti. Cioè... Ha fatto anche il Pomo Fiore. Sì, il Pomofiore, ne ha fatte tantissime su Antenna 3, e ha lanciato un sacco di comici che poi sono diventati famosi a livello mondiale. Sotto di lui sono nati per esempio Teo Teocoli e Massimo Boldi, Giorgio Faletti, tantissimi altri comici che hanno iniziato dalle sue trasmissioni su Antenna 3, e poi sono esplosi, diciamo, negli anni successivi a livello nazionale, più che altro nelle TV private di Berlusconi, sono Mediaset. Vabbè, lui poi divenne conduttore Rai, fece tantissimi anni, forse la, forse la stragrande maggioranza dell'esperienza di Giochi Senza Frontiere, sì. Tant'è che lui dice che è stato comunque il più presente in senso assoluto a livello europeo come conduttore. Io mi ricordo, sì. Poi lui fu allontanato dalla Rai per motivi che io non so, non ricordo onestamente, quindi lui ricorda un po' questa cosa, insomma, come non so perché le ultime edizioni non mi hanno fatto fare, tanto ero stato allontanato dalla Rai, quindi insomma in generale lui è stato l'uomo. Lui secondo me in Italia ha rappresentato Giochi Senza Frontiere in qualche maniera, e secondo me lo sentiva anche un po' una cosa che gli apparteneva, no? In qualche maniera lo dice e infatti poi nella sua esperienza di eurodeputato lui fu il firmatario di una direttiva che fu approvata a livello europeo, che era Televisione Senza Frontiere, proprio dal nome del programma Giochi Senza Frontiere, che lui sentiva quasi come suo, no, non che fosse suo, ma sicuramente ha visto, come hai detto tu, la sua partecipazione per la maggior parte del tempo, ed è una direttiva che regolamenta l'emittenza comunitaria e dà indicazioni sul diritto interno degli stati membri sui programmi televisivi. Infatti addirittura poi questa è stata presa nel 2006, questa direttiva è stata utilizzata da Gentiloni perché la legge Gaspari non rispettava, secondo gli organi europei, lo spirito della direttiva, insomma, quindi vabbè, poi vabbè, lasciamo perdere, sì, entreremo in una parte, una cosa complicata, sì. Esatto, andiamo a toccare delle cose che non ci competono per questa trasmissione, almeno poi magari una puntata sulla politica la faremo, magari sulla Prima Repubblica, quella la devi fare tu, Simone. Sì, sì, ci sono due o tre puntate abbastanza particolari, a parte che comunque Enzo Tortora, c'è la puntata, io lo spoilero così, insomma, c'è una puntata su un grosso evento aeronautico, insomma, che ha toccato il nostro paese negli anni Ottanta, e poi sicuramente sì, insomma, diciamo, anche il modo in cui era concepita proprio la politica negli anni 70, 60, 70 e 80, diciamo, insomma, la Prima Repubblica, senza arrivare poi proprio nel dettaglio più strettamente politico, però diciamo che l'Italia comunque era molto diversa da quello che è oggi, così come ovviamente, insomma, diciamo, però ecco, Giochi Senza Frontiere c'è. Comunque, vai. Adesso non so se vuoi mettere magari prima il pezzo di lui oppure lo mettiamo dopo, se vogliamo parlare adesso un po' dei nostri ricordi, dimmi tu, Simone, come. No, io direi che procedere. Possiamo parlare un po' dei nostri ricordi partendo da Davide e da te, perché io bene o male un po' la cosa, cioè l'introduzione l'ho fatta, perché io Andenna me lo terrei proprio, diciamo, per fare una sorta di conclusione, perché lui comunque fa una riflessione alla fine, che è una riflessione che io condivido, ok, quindi in qualche maniera secondo me in questo suo piccolo intervento, che poi può essere anche visto come uno vabbè stai a rosicare nel senso non sei più parte di questo meccanismo, tra l'altro lui ci racconta come, questa è un'intervista di 3 o 4 anni fa, il 2019, no? Sì. Quindi considerate che lui ancora dice che ancora arrivano segnalazioni, petizioni dalle persone perché venga ripristinato Giochi Senza Frontiere, che oggi tra l'altro ha delle repliche, cioè nel senso ci sono delle trasmissioni, ce n'era una in particolare su Netflix che era internazionale, era più globale, cioè penso che era a livello mondiale, perché c'erano gli americani, gli italiani, c'erano un po' di tutti, però era molto più estremo come concetto, partiva dallo stesso presupposto, ma era un gioco molto meno giocoso, era molto più serio, la gente alla fine si faceva pure male, no? Atleti proprio nel senso più puro del termine, sì. Però adesso non ricordo come si chiama il programma, però diciamo che quel tipo di esperienza lì, poi a parte questi scimmiottamenti, diciamo non si è più replicato, con anche l'importanza, no? Cioè, dal punto di vista dell'audience che aveva comunque, forse oggi non ce l'avrebbe manco più, non lo so, cioè nel senso non è così facile. L'Eurovision ce l'ha ancora, quindi secondo me se fosse fatta bene qualche speranza di avere un'audience elevata ce l'avrebbe, secondo me, però è una mia idea. Però Davide, racconta. Volevo dire, non vi ricorda in qualche modo quelle trasmissioni che c'erano negli anni 90 o 2000 forse, giapponesi? Sì, come si chiamavano? Sì, quello come tipo di giochi, sì. Mai dire Banzai. Mai dire Banzai era la trasmissione italiana che portava ovviamente con la Jalapas, esatto. Cioè loro prendevano in giro queste cose da TV, diciamo che concettualmente era simile, anche se pure lì i giapponesi facevano cose che noi non avremmo mai fatto, la gente che soffriva proprio, cioè, i giochi divertenti ci stava, però diciamo che la formula vera di Giochi Senza Frontiere era la partecipazione dei paesi, lo spirito era diverso, là lo ricordavo un po' come carrozzone, come con tutti queste attrezzature complesse per fare un gioco, però diciamo che pure le scenografie dei Giochi Senza Frontiere non erano un gioco, era quello, tanta gomma piuma, tanta acqua. Cos'è il fil rouge? Ma l'abbiamo spiegato cos'è il gioco? No, il gioco, allora, giusto, hai ragione, consisteva in cos'era il gioco, per chi non lo sapesse, l'abbiamo dato per scontato, in effetti era una serie di prove che ogni nazione doveva affrontare per guadagnare dei punti, no? E nelle prove in cui le nazioni si sentivano più forti potevano giocare il jolly, che faceva raddoppiare il punteggio che era stato totalizzato. E alla fine c'era la prova speciale, che era il fil rouge, una prova speciale che ogni squadra doveva affrontare in maniera individuale, cioè era la squadra da sola che faceva il fil rouge, quindi faceva questa prova speciale che se la superava prendeva tanti punti che venivano sommati alla fine della partita, insomma della trasmissione. Chi faceva più punti aveva vinto. Poi nelle varie edizioni sono state raggiunte delle cose speciali, tipo i punteggi raddoppiati nel finale, nella seconda serie, e la scommessa, che era la squadra che faceva il fil rouge e non poteva partecipare, quindi faceva la prova individuale, le altre facevano invece la prova a squadre, puntava su una nazione e otteneva i punti se quella vinceva. C'era, non so, l'Italia che diceva: se punto sulla Spagna, se vince prendo anch'io i punti che ha vinto la Spagna. Insomma, questo più o meno era il concetto, molto semplice se vogliamo. I giochi erano molto diversi, molto divertenti, giustamente come ha indicato quelli di Mai Dire Banzai li ricordavano, erano giochi soprattutto acquatici, perché come ho detto Giochi Senza Frontiere era fatto d'estate, quindi c'erano giochi con tanta acqua, quindi tanta gomma piuma e tanta acqua, ed erano giochi divertenti, sempre diversi, ispirati un po' a quelli classici come la corsa coi sacchi eccetera, però con rivisitazioni, no? Che dovevi portare delle cose assurde, lanciare dovevi fare i topi che uscivano dal formaggio, cose, insomma. Tutte invenzioni molto divertenti, era un po' anche il bello della trasmissione, era scoprire questi giochi strani, strambi, che dovevano fare spesso travestiti indossando cose salvagenti piuttosto che martelli di gomma piuma o capelli giganti. Allora, a parte l'agonismo, per noi era anche vedere che cosa si erano inventati. No, ma era quello. Cioè, lì lo spirito agonistico, secondo me, ce l'avevano le squadre. Ma tu che guardavi? Guardavi la cosa divertente. Uno, io ero curioso di vedere proprio le scenografie. A volte mi immaginavo che figo, sai, che sarebbe figo starci lì dentro, no? Roba del genere. Quindi giocare. E ovviamente c'erano queste gare che a volte erano proprio veramente divertenti. Cioè, nel senso, perché la difficoltà stava anche nel riuscire a portare al termine senza, che ne so, intruppare, sbattere, cascare sotto o cose del genere. E in quello ricordavano anche un po', come dicevo prima, un po' i videogiochi. Comunque c'è Deborah che in chat ci dice che qualche tempo fa, non so se quest'estate addirittura, infatti mi ha linkato poi l'articolo, torna Giochi Senza Frontiere, si chiama Eurogames con Ilary Blasi e Alvin, so il cazzo che sia Alvin, però è stato rifatto un po' di anni fa, però dice che non è andato a un granché, non è andato, no, è stato un tentativo con un altro nome nel 2019, infatti 2019, ma fu trasmesso sulla Fininvest, su Canale 5. Comunque volevo ricordare un'altra cosa, che magari anche qua noi che siamo abituati non ci facciamo neanche caso, però pensate in quegli anni i giochi come erano, e a volte erano anche, cioè, gente che saliva su delle robe altissime, degli scivoli, delle robe. Oggi per fare un gioco del genere ci vorrebbero 6.000 autorizzazioni. Allora sì, sì. Su questo, 5.000 ambulanze, portiere. Allora, su questo ci avevo pensato anche io, che secondo me oggi la inapplicabilità, diciamo, sta anche in una cosa del genere, cioè nel senso che non che allora non ci fosse la sicurezza, però sicuramente la percezione, la sensibilità, l'impatto politico, no, di questo tipo di situazioni sicuramente oggi è maggiore, cioè nel senso oggi non sa prenderebbe nessuna responsabilità. Beh, devi fare il gioco che devi passare su una passerella, caschi nella piscina perché se caschi male te fai male, cioè comunque potenzialmente ci si poteva stare, no? Però è vero che per esempio in un video che poi magari dopo rilinkiamo, dove ci sono dei spezzoni, insomma, dei giochi senza frontiere, c'è stato un pezzo che loro sono tutti dei ciccioni praticamente, sono travestiti dai ciccioni, quindi poi alla fine anche se caschi, cioè era proprio era difficile se facevi male, no? Quindi però sai che sicuramente i criteri di sicurezza e i requisiti erano sicuramente molto più blandi, ecco, diciamo, questo posso confermarlo, perché come ho detto io sono stato a una esattamente nel 1991, che era la 22esima edizione, quindi quelli ripresi dopo la fermata degli anni 80, era la prima puntata dell'11 luglio del 1991 e si faceva a Vigevano. Siccome abitavo a Settimo Milanese, nella provincia di Milano, Vigevano in provincia di Pavia, ma sono relativamente vicini, nel senso che sono facilmente raggiungibili perché sono tutte e due a ovest, sud-ovest di Milano, e io avevo un amico, si chiama Andrea Perotti, che abitava a Vigevano, ed era un amico con cui ci frequentavamo molto, sia io che mio fratello, ci invitò al fatto che facevano a Vigevano questa prima puntata di Giochi Senza Frontiere, e riuscì a avere i biglietti come pubblico, insomma, quindi andammo a partecipare come pubblico per tifare appunto la città di Vigevano, che vinse oltretutto quella puntata. Partecipava per l'Italia Vigevano, poi c'era la Francia, il Portogallo, c'era San Marino, la Spagna e il Galles che rappresentava la Gran Bretagna. Quello che mi ricordo era estremamente spartano tutto, cioè i miei ricordi sono di fango da tutte le parti, io mi ricordo tanto fango, se devo ricordarmi quelle cose mi ricordo fango da tutte le parti, perché c'era tanta acqua ed era in un campo, quindi proprio ti sporcavi, come anche solo a fare il pubblico ti sporcavi, ed era tutto montato ma questo viene a favore un po' di quello che diceva Davide, no? Cioè oggi per organizzare una cosa del genere dovresti fare tutto più pulito, tutto più ignifughi. Era molto simile al circo il montaggio, sì, il palco, esatto. Erano proprio, sai, quando vai al circo che ti siedi su quei palchi con le assi di legno, tu immagina solo l'enorme sicurezza per gli spalti oggi, cioè una cosa, esatto, del genere, cioè, allora niente. Tra l'altro Deborah ci ricorda che in effetti col gioco dei rulli di Charles Darwin un uomo è rimasto paralizzato, sì, e tra l'altro recentemente ha anche perso la causa. Quindi non riceverà neanche il risarcimento, cioè tipo una cosa assurda, vabbè. Comunque questo era il mio ricordo, e lo dicevo proprio a conferma di quello che diceva Davide, cioè che era estremamente spartana la cosa come costruzione, come tipologia, eccetera, quindi effettivamente adesso non so quanto si potrebbe replicare una cosa, sicuramente sarebbe più costoso e va organizzato in maniera molto più, là davvero l'organizzazione poteva essere anche un po' più, cioè si poteva organizzare liberamente, allora facciamo una roba alta così, facciamo così, scivolano giù, senza poi pensare più di tanto a tutto il resto che ci sta intorno. E devo dire che secondo me è stato divertente per noi che l'abbiamo visto, anche per questo, perché comunque perché era spartano, cioè, si usava la vera fantasia di chi voleva fare i giochi. Oggi la fantasia sarebbe tarpata, ma era anche un gioco vero, cioè nel senso comunque la gente faticava, cioè capito qual è il discorso, cioè non era comunque così scenografico dall'essere quasi finto, no, fittizio, roba del genere. Poi è chiaro che sicuramente oggi, come dici te, a mettere su un baraccone del genere solo dal punto di vista scenografico, quindi mantenere un certo equilibrio, una pulizia. Poi voi dovete considerare che oggi i set cinematografici e televisivi, quando entrano in possesso temporaneo di un luogo, non solo ci devono avere tutte quante le certificazioni, quello è ovvio, ma quando se ne vanno le cose devono essere esattamente come erano un minuto prima che loro arrivassero. Il che significa praticamente uno sforzo anche di non impattare, che è mostruoso. Quindi è ovvio che i costi oggi sarebbero incalcolabili da un certo punto di vista, e quindi o c'è una grossa produzione dietro o sarebbe veramente infattibile, insomma. C'è Vincenzo che dice: nel 1969 le hanno fatte nella Reggia, penso di Caserta, sì, sì, e nelle fontane. Oggi la soprintendenza li fucilerebbe. Molto probabile, molto probabile. Va bene, e Simone, cosa facciamo? Allora. Io racconto solo una mia cosetta veloce, niente di che. Tra l'altro è una cosa che io già avevo raccontato probabilmente nell'episodio 1, l'episodio 12 della prima stagione, che si chiamava Immaginazione, che parlava appunto di noi ragazzini che giocavamo a qualcosa, no? E io abitavo in un condominio che aveva un cortile, che adesso metto in chat per farvi vedere di che cosa sto parlando, un cortile privato all'interno del mio caseggiato molto grande, dove c'era un grande spazio per giocare a calcio, per fare tante cose, e c'era un paio di ragazzi più grandi di noi, in generale erano abbastanza grandicelli, fratelli, che erano veramente molto bravi, e ogni tanto arrivavano con il loro bel blocco notes gigantesco, il cartellone con i nomi dei paesi che dovevamo simulare, no? L'Italia, la Francia, eccetera. Si organizzava questi giochi senza frontiere raggruppando tutte le persone che c'erano, e arrivavano anche da fuori dal nostro palazzo, e si facevano questi giochi senza frontiere. Loro organizzavano tutti i giochi utilizzando quello che avevamo a disposizione lì, senza portare niente di più, niente di meno, magari una corda piuttosto che qualche oggetto da mettere per terra, che potevano essere dei sassi, bisognava fare delle robe, però ci arrangiavamo con quello che era lì presente in giardino, usando gli alberi, usando la siepe, facendo tutta una serie di giochi. E questi qua avevano sta passione di organizzare tutto, arrivavano giù, li vedevi arrivare, o si organizzava già il giorno prima, domani giochi senza frontiere, e tutti eravamo lì, e loro ci gasavano tantissimo, perché veramente erano organizzati bene, avevano tutti gli elenchi dei giochi, come andavano fatti, spiegavano le regole, tenevano i punteggi, c'era il tabellone con la penna, proprio fatti bene. E almeno una decina di volte ci abbiamo giocato negli anni, che quando arrivavano per noi era una festa, sebbene i giochi ovviamente non erano del calibro di quelli che vedevamo in TV. Dice Vincenzo che tu stai in panchina, però. Sì, no, io facevo il mio, giocavamo, insomma, erano giochi. No, io devo dire che mai spalancato un ricordo, perché in effetti, se ci pensiamo bene, cioè Giochi senza frontiere ci ha avuto un grosso impatto proprio dal punto di vista proprio dell'influenza, perché se vivevi, se passavi le tue villeggiature in consorzi, oppure come erano le colonie, roba del genere, comunque sì, chi faceva chi faceva animazione prendeva spunto da Giochi senza frontiere. Cioè, si facevano sti giochi, hai ragione. Infatti, adesso che me l'hai ricordato, mi ricordo che certe risate pure lì, perché poi chiaramente. Però, raga, posso dire una cosa? Lo so che adesso Carlo se gringia, però secondo me si rideva di più una volta. Non posso dire questa cosa. Cioè, comunque c'era un po', cioè, sta cosa, diciamo, nell'impronta di maggiore semplicità, ecco, perché diciamo. Eri giovane, perché ero giovane, magari sì, è vero, no, ma io non lo metto in discussione, ma io rido anche adesso, cioè non è che mi cambia niente, però diciamo che vedi che la società, da questo punto di vista, non dico è peggiorata o migliorata, è cambiata inevitabilmente, perché oggi lo spirito di fare quelle cose, oggi la gente insieme le trovi di meno, no? Nel senso, poi non è che è meglio o peggio, non mi frega niente, non faccio un giudizio, non è una questione di giudizio, è una questione che chiaramente io oggi a 50 anni, guardando indietro e vedendo il ricordo che mi ha sbloccato Davide, dicevo: cazzo, però dai, se divertiamo. Io a Matteo ogni tanto glielo dico, ma perché fate certe le ammucchiate che volete, fate per buttare, ovviamente no, adesso no perché c'ha 22 anni, però pure quando era ragazzino sono tutti un po' più seri oggi, cioè tutti un po' no, più diciamo che è cambiato, perché per esempio questo giardino che voi state vedendo adesso è vuoto perché era un momento in cui era vuoto, però nelle ore adesso è un cimitero, di pomeriggio era affollato e pieno di l'angolo delle ragazze che giocavano, noi dall'altro che giocava a pallone, era sempre pieno, c'erano anche delle mamme sedute su quelle panchine che vedete vuote, però c'era sempre movimento, era un giardino sempre pieno e noi eravamo tutto il giorno in quel giardino o in giro. Sì. Oggi, ma anche oggi, scusa, dagli anni 2000 in poi, io quando andavo a trovare mia madre mi affacciavo, il giardino era sempre c'era vuoto, nessuno. C'era sì, nessuno, no vabbè è cambiato, non ti ho detto, non è una questione di merito, cioè non è una questione di giudizio, però poi giustamente Vincenzo dice chi è che non ha giocato mai a campana o disegnando sul cemento, no? Per esempio, ma io penso che giochi senza frontiere, no? Poi alla fine prende spunto da tutta quella quei giochi ancestrali che facciamo da sempre, cioè quindi perché che cos'è il gioco se non costruirsi il gioco, no? E alla fine giochi senza frontiere era un'enorme costruzione di un enorme gioco e quindi alla fine per questo era familiare, era una cosa che c'era era vicina, quello che abbiamo raccontato in quell'episodio di Quadro Futuro, il 12° della prima stagione, che si chiamava Immaginazione, cioè bravo. Ci costruivamo i giochi esatto. con quello che avevamo, a parte chi comprava l'UFO Solar, chiaramente, che ancora non so. L'UFO Solar era tentando di farlo volare adesso. L'UFO Solar era un gioco di due giorni, si giocava due volte, tre. No, però visto che ancora su Facebook ogni tanto qualcuno scrive cioè mammicca dicendo di UFO Solar, per me si è rimasto impresso, però vedi che mi fa piacere, insomma, perché il Boeing, il tubo Boeing. Sonar a me invece mi viene il tubo Sonar, no l'UFO Solar. Vabbè ragazzi, io concluderei un attimino con questa riflessione. Sì. Aspetta un attimo che mi sono un attimo perso, ma ci sono. Allora, quindi concludiamo un attimo con questa riflessione di Andenna, appunto, che ha insomma 3-4 anni fa lo intervistano proprio in merito a Giochi Senza Frontiere. In realtà poi l'intervista è molto più ampia, che è stata sintetizzata su YouTube e io l'ho ulteriormente sintetizzata perché poi magari dice anche di cose che insomma ci interessano relativamente, e ve la faccio ascoltare. In occasione del ventennale della dipartita di Giochi Senza Frontiere, perché l'ultima volta fu a Crotone nel 1999-2019, sono 20 anni che non ci sono più Giochi Senza Frontiere. Quelli al di sotto dei 25 anni non sanno assolutamente di che cosa si stia parlando. Quelli al di sopra dei 25 anni se li ricordano con affetto e nostalgia. Era la trasmissione dell'estate, non c'è più la trasmissione dell'estate. Ogni anno ci sono petizioni da parte del pubblico che rivolgono Giochi Senza Frontiere. Per anni è stato considerato il babysitter ideale, perché per due ore i ragazzi erano davanti alla televisione durante l'estate, quindi c'era una sera d'estate libera, cominciavano a guardare i ragazzi, ma poi arrivava tutta la famiglia, quindi era lo spettacolo per famiglia per antonomasia, dove si faceva il tifo. Si faceva il tifo perché c'era questa competizione, la competizione vera, c'era, assoluta. I portoghesi cominciavano a preparare le squadre nel mese di gennaio, c'erano atleti, li vedevi che boccheggiavano, che rischiavano di annegare, che si aggrappavano disperatamente con i denti all'ultimo brandello di corda per cercare di arrivare ad un risultato. Per che cosa? Per la loro città, che in quel momento rappresentava l'Italia. Gli ungheresi portavano i campioni di triathlon e le campionesse di triathlon e di pentathlon con le carte d'identità false, perché per loro era un fattore nazionale. C'erano un'interrogazione al Parlamento quando giocavano male. Era l'Europa che si guardava e che si scopriva. Quando viene fatta la battuta, ha fatto più Giochi Senza Frontiere dalla Comunità Europea, se vogliamo è vero, perché nel visivo dava un'immagine bella dell'Europa agli europei. Giochi Senza Frontiere oggi nell'ambito dell'Europa ridarebbe un senso di leggerezza, di ludicità, di divertimento che in questo momento l'Europa non ha. In questo momento l'Europa sembra un ombrello nero che rischia sempre di chiudersi sull'Europa. Incredibilmente si parla di senza frontiere, ma le frontiere sono risalite velocissimamente. Ogni paese sta diventando sempre più chiuso, sempre più timoroso che l'Europa l'invada e che gli porti via delle cose. Una volta invece no, c'era voglia di farsi conoscere, voglia di partecipazione. Questo non c'è più. Ecco, allora io faccio due appunti su questa intervista che ritengo, cioè, alcune affermazioni interessantissime, a parte il finale che, come immaginate, per chi mi conosce, io condivido al 100%, perché poi comunque non era quella l'intenzione, ma non può non essere comunque politica anche Giochi senza frontiere da un certo punto di vista, e quindi Andenna qui ce lo dice, cioè, nel senso, comunque a quell'epoca era la gente dell'Europa che guardava all'Europa come un qualcosa di partecipazione, no? E che oggi invece noi vediamo un po' al contrario: ah, ma sta Europa ce l'ho per cazzo, ce deve mettere le regole e via dicendo, no? E vabbè, e questo poi non entriamo poi nello specifico, nel merito, però è chiaro che lo spirito c'è, non c'è più, no? Da quel punto di vista, forse è un po' di meno. E poi c'era questa cosa che è incredibile, perché noi la raccontiamo, io faccio fatica, ma pure quando parlo con Matteo è difficile far capire quanto geopoliticamente in 30 anni, 40 anni l'Europa sia cambiata, perché lui parla per esempio degli ungheresi, no? Che vabbè, falsificavano le carte d'identità perché mandavano gli atleti veri, perché per loro era una questione di principio, ci tenevano sti cazzo dei giochi senza frontiere, no? Però gli ungheresi partecipavano a un progetto europeo da non europei, cioè europei, non europei nel senso che non facevano parte dell'Unione, cioè loro erano il blocco sovietico, erano ancora l'Est, cioè l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, erano l'Est. Volevano diventare europei. E volevano, esatto, e guardavano verso di noi come quella speranza di decomunistizzazione che in qualche maniera voleva arrivare verso un qualcosa di diverso. E oggi l'Ungheria, paradossalmente, è forse il paese che traina più indietro da questo punto di vista, no? Cioè, c'era che da dire che però quelli dell'Est, quelli est-est, cercavano comunque sempre di far vedere che loro erano il meglio. Sì, sì, sì, vabbè, chiaro. Parlavano in tutti, chiaro, i modi possibili. Ma lì avevano anche voglia di Europa. Da una parte prendevano le bastonate, cioè nel senso, se perdevano prendevano le bastonate. Dall'altra loro guardavano verso un qualcosa al quale aspiravano, ok? E inevitabilmente, perché comunque per loro era un simbolo di diversità, no? Anche di ribellione, di rivoluzione, no? Per certi versi. E questo è stato, secondo me, Giochi senza frontiere, questo messaggio lo ha portato violentemente nelle case delle persone, perché era un gioco, cioè non era una tribuna politica, non era una persona noiosa, era un gioco, è un gioco divertente col quale tutti ridevamo, e mentre ridevamo, diciamo, quel gioco ci portava quel messaggio, cioè nel senso, alla fine, secondo me questa era la straordinaria bellezza. E io da ragazzino sta cosa non dico che la comprendevo, ma la percepivo, perché percepivo questa cosa del, che era la stessa cosa che noi raccontavamo, erano tutti amici, esatto, quando noi andavamo in vacanza in Valtellina, e per noi la Valtellina eri andata all'estero, cioè, capito? E quindi parlavi con persone che parlavano diversamente da te, che la pensavano diversamente da te, che avevano abitudini diverse dalle tue. E questa voglia di scoprire qualcosa che non era il tuo mondo era la cosa più bella. E Giochi senza frontiere, secondo me, ha rappresentato anche questo. Anche se c'era un terreno comune sul quale tutti si dovevano confrontare, e lo facevano con le loro capacità, insomma, immagino appunto quelli là che mandavano gli atleti, gli italiani che erano magari più, che ne so, magari ci credevano, perché sì, però magari la voglia di vincere, però, perché rappresentava l'Italia, era il paesino che rappresentava l'Italia, quindi sì però era la parrucchiera, però capito, cioè non era il paesino contro il paesino, era il paesino che in quel momento rappresentava la nazione, esatto, cioè, quindi esatto. Quale motivazione più incredibile da quel punto di vista, no? Che tu stavi lì e, come dicevi, sì, erano ragionieri, erano l'impiegato che però mettevano tutta la loro capacità di saper superare il problema e per vincere magari la gara quando la vincevano, no? Nel senso, ed era bello, ragazzi, perché comunque tu questa sensazione di amatorialità e di divertimento la percepivi. Poi secondo me lì magari se sarebbero presi a cazzotti per vincere, però comunque il gioco era un gioco, poi magari si prendeva ma certo, quando eri dentro l'agonismo, ma perché il gioco è una cosa seria, capito? Cioè, nel senso, comunque vai Carlo, sono Davide, scusate, ho un po' interrotto perché mi sono fatto prendere da questa intervista e volevo sapere anche che cosa ne pensavate da quello che ho estratto, perché poi il resto in realtà era un po' un dilungarsi sui stessi concetti, quindi, oppure della sua vita in campagna che non ce ne poteva fregare di meno. Comunque ha ricordato quello che è stato e con difficoltà, no, ma neanche tanto, insomma, ci ha fatto capire che oggi forse sarebbe un po' il problema. Perché pure Deborah dice, forse oltre al guardare con aspirazione volevano pure dimostrarsi degni, no? Di poter appartenere a quella comunità, no? Perché se fossi stato lì avrei dato il meglio di me stesso sicuramente, perché non ero lì a perdere tempo, qui c'è solo l'Italia, la maglietta dell'Italia io. E poi c'era bravo Vincenzo, c'era anche la voglia di riscatto, soprattutto l'europeo questa cosa l'ha sentita, cioè secondo me questa è una cosa che un americano non potrà mai comprendere, perché sì, è vero che pure loro hanno fatto le due guerre mondiali, ma loro l'hanno fatte, noi le abbiamo subite. Cioè noi ci siamo trovati con un continente completamente distrutto in un periodo in cui abbiamo provato tutti gli europei a ricostruire mattone dopo mattone, identità dopo identità, e quindi partecipavamo cercando di dimostrare a quello che era che tu eri in condizione di poter competere con lui, cioè che eri degno di poter scontrarti con lui, e cercavi il riscatto anche in questo, no? Ragazzi, secondo me, cioè, Giochi senza frontiere ha rappresentato un 25 anni di storia anche dell'Italia, cioè in qualche maniera, perché l'Italia secondo me tutta l'Europa, però secondo me poi l'Italia ci ha messo il suo, no? Il suo modo, no? di vedere questa cosa, perché noi poi alla fine ci siamo sempre un po' considerati come quelli un po' arruffati, quelli che arrivano dopo, quelli un po' di serie B. In realtà poi noi abbiamo partecipato alla costruzione di tutto, cioè, sì, esatto, e questa è la cosa importante, questa è quella che ho detto anche all'inizio, assolutamente, perché sì. Cioè, se tu pensi all'Unione Europea è partita da Roma, cioè nel senso, alla fine, cioè nel senso, poi dopo, prima era l'Unione del Carbone, di quell'altri che lì è, poi diventava qualcosa di più, poi diventava qualcosa di più, e comunque è la stessa cosa dell'Eurovision, no? Quando dicevamo del Song Contest, alla fine l'Italia è tra i fondatori, perché noi in quel momento anche lì è nata dall'idea del Festival di Sanremo, come qui è nata da una trasmissione italiana, sempre noi abbiamo, cioè, perché noi comunque ci credevamo a sta cosa, capito? Cioè questo abbiamo fatto, dato una spinta, poi chiaramente magari gli altri organizzavano le cose meglio, io non lo metto in discussione, cioè, nel senso, questo non è che voglio fare il nazionalismo, perché non lo sono mai stato, però insomma era bello vedere proprio la partecipazione della gente, e il giorno dopo se ne parlava dei Giochi senza frontiere, che insomma era come il campionato di pallone, cioè la stessa cosa, no? Che da mattina dopo al bar col Corriere dello Sport o con la Gazzetta dello Sport, che ha fatto la Juve, che ha fatto il Torino, no? E invece lì si scherzava perché magari c'erano stati degli eventi che ti avevano divertito di più, oppure perché magari l'Italia aveva vinto la gara o via dicendo, insomma, quindi bello, io devo dire, bello. Tu Carlo invece volevi aggiungere qualcosa su questa intervista? Sì, io vabbè, a parte si nota il fatto che sta rosicando, che non ci sono più i giochi e lui li vorrebbe fare di nuovo, si nota la sua, diciamo, la sua partecipazione di Andenna, ma ci sta. Però io sono fondamentalmente, come hai detto tu, d'accordo con lui assolutamente sull'ultima parte che ha detto, e quello che voglio aggiungere io è che l'ho già detto ma lo ripeto, che secondo me, ma questa è una mia opinione, un mio pensiero, se pensati bene, invece adesso si potrebbero rifare Giochi senza frontiere e potrebbero avere un ottimo successo, perché alla fine non è così diversa, al contrario di quello che hai detto tu prima, che prima si ridea di più. In realtà questa voglia sotto c'è, cioè la gente ce l'ha ancora, è ovvio che deve essere proposta in maniera diversa perché i tempi sono cambiati, ma se studiata bene, una cosa come questa potrebbe riportare come l'Eurovision lo sta facendo dal punto di vista della musica, che non ci ha creduto nessuno, e guarda che successo che comunque sta avendo l'Eurovision Song Contest. E dall'altra parte qualcosa di simile che noi quest'anno riseguiremo, giustamente, come abbiamo fatto gli altri. Io e tua moglie di solito siamo, sì, esatto, io sai non sono in condizione, esatto, e secondo me potrebbe riuscire, però ovviamente io non è che posso farlo, è una mia idea, è una mia opinione, diciamo, questa, lasciamola così. Diciamo che oggi ci sarebbe sicuramente più l'occhio allo sponsor, ai soldi, ai budget, a tutte le robe che magari all'epoca erano un po' più sempre il secondo piano. Sì, magari. Però quello sì, però secondo me col fatto del social, di internet, eccetera, si potrebbe trovare una commistione che potrebbe generare un qualcosa di veramente virale da questo punto. Sì, lo chiameranno Red Bull senza frontiere. Vabbè, ma quello oggi è anche inevitabile, come abbiamo detto, oggi un costo di produzione di un'organizzazione del genere sarebbe triplicata, no? Ci sta. Il problema è se si riorganizza con l'intenzione, a livello anche più istituzionale, comunque di dare, riportare quell'idea lì, no? Perché giustamente, come dici, Carlo, alla fine magari non è che la gente non gioca più e non si diverte più, è che l'istituzione, la società, il mondo che ci circonda in questo momento non ci danno un motivo per farlo, no? Oppure non ci mettono nelle condizioni di poterlo fare. Noi stavamo a pensare ai tassi di interesse, ai cazzi, l'Eurobanca, roba del genere, ma l'Europa una volta era un altro discorso, cioè, e quindi se tu riporti quel tipo di filosofia, ma giocosa, perché comunque quello non c'è niente da fare, perché tutto sta credito, hai capito, che ha devastato gli ultimi 20 anni di politica globale, io non parlo solo in Italia, quindi insomma, e purtroppo è questo. E quando Andenna dice, cioè nel senso oggi, cioè nel senso oggi nel momento peggiore è il momento in cui ci sarebbe bisogno di una cosa del genere, perché questo è un po' il momento peggiore, poi alcuni lo percepiscono, altri meno, ma è così. È vero. Però bello, bello, ma io ci tenevo a questa puntata perché vibra, no, in qualche maniera dentro i ricordi di tanti. Io so che molti poi ascolteranno il podcast e ci scriveranno nei prossimi giorni, perché tanto succede così. Poi non capisco perché la gente mi scrive in privato, ma comunque vabbè. Ma non perché non lo potete fare, cioè, però è più bello se partecipate nel gruppo, un commento pubblico è più divertente. Eh sì, perché per esempio si accende la discussione. Noi ricordiamo che abbiamo il nostro gruppo su Facebook che si chiama Quando Eravamo Futuro, gruppo di Facebook, non lo so come si non so come si chiama, forse magari quando eravamo futuro manca un Instagram, dei riferimenti social, non lo so, mo adesso vediamo. Vabbè, non c'è sempre dirette, c'è sempre telegram.me/dirette runtime, dove ovviamente Debole e Vincenzo in questo momento, prima poi c'era anche Vincent Valentine e gli altri insomma che hanno partecipato, se no ovviamente va ascoltato. Vincenzo appunto ricorda che dice purtroppo si fa pesante la pressione e l'influenza di troppo e dominazioni straniere subite. In Italia? Ah no, sì, perché stavamo facendo un discorso sul fatto che noi ci svalutiamo sempre nei confronti, esatto, dell'estero. Io con Deborah stavamo parlando e ho detto soprattutto quando vai all'estero, cioè quando andiamo all'estero tante volte noi ci sentiamo in diritto e di ma mica, vedi, da voi è così, da noi è una merda, no? Cioè nel senso, perché poi alla fine un po' ce l'abbiamo questa tendenza, non tutti chiaramente, però no, non tutti, più i milanesi devo dire che i romani, guarda, in generale io alla fine, almeno quello che noto io, che quando andate fuori da Roma in generale voi comunque decantate le bellezze di, cioè se un romano va, lo incontro in vacanza per dirti, e si parla, lui a un certo punto dirà però è la carbonara e du spazio, cioè vuol tornare verso Roma, vuole tornare a casa. Il milanese invece dopo 3 secondi, quando è, soprattutto non so se è all'estero da qualche parte al mare in Spagna piuttosto che, dice no, adesso io compro un locale qua, mi trasferisco qua, vengo qui, cioè Milano non gliene frega più niente, e l'Italia la vuole abbandonare subito. Questa è una cosa tipica del che ho notato, non so se l'avete notato anche. No, vabbè, sì. Io di solito comunque io sono stato tanto all'estero per diverse ragioni, comunque bene o male ho viaggiato tanto e devo dire che ogni volta che vedo comunque mo sì, cioè nel senso che magari il romano è più attaccato alla romanità perché comunque vede ancora Roma come la città bella, come comunque ci sono dei simboli degli attaccamenti a un certo tipo di radice che poi oggi piano piano questa cosa svanisce sempre di più, no? Però in generale comunque l'italiano va all'estero e guarda tutto, già vedi qua funziona così, da noi era merda, cioè è proprio, questo è un discorso che ho visto milioni e milioni di volte e ogni volta magari mi domandavo, cioè la mia esperienza mi porta a dire che nessun sistema è un sistema perfetto e che quando tu vivi in un sistema e poi dopo dei confronti con gli altri vedrai che il tuo sistema sarà sempre una merda, cioè perché è così che funziona, non c'è niente da fare. Poi chiaramente c'è i paesi scandinavi che vedono nell'organizzazione sociale il top, no, dal punto di vista della civilizzazione, eppure anche lì poi alla fine ci sono dei controbilanciamenti che sicuramente noi non conosciamo, perché noi quando vai fuori tendi a vedere le cose più esteriori, no? Il treno che arriva puntuale, adesso faccio un esempio stupido, no? Poi magari ci stanno i mostri sotto le metropolitane, cioè non lo sai, no? Quindi comunque vabbè, al di là di questo devo dire ci tenevo a questa puntata, sono veramente molto contento perché per me è stato, scusate ma sapete che riuscire a gestire il mixer da solo veramente, cioè no, perché ho messo il microfono lontano, troppo lontano, mi devo riorganizzare un pochino e quindi insomma Giochi senza frontiere per me ha rappresentato tanto il modo in cui l'ho vissuto, il modo in cui l'ho vissuto con la mia famiglia, il modo in cui mi sono divertito anche con mia madre, quindi c'è un legame estremamente affettivo e concettuale da un certo punto di vista, quindi immagino che sia così per tantissime altre persone, così come per Carlo e per Davide, ma magari Davide il problema è che essendo più grande di noi tende insomma magari a vedere le cose un po' diversamente, cioè magari lui era già andato oltre, no, a una certa età, però io adesso vi voglio salutare. Prego Davide. C'era un'ultima parte che mancava. Ah, scusa. Quello che ho lasciato in fondo. Scusa. Che avevo annunciata, che era quella. Che schifo. Quando tu hai detto, te l'avevo scritto anche in chat, ma vedi che ci hai perso il pezzo. Eh sì, no, stavo vedendo che mi stava da scrivere, ma non. Scusa. Abbiamo accennato prima il discorso che sembra quasi un videogioco, no? Ricorda molto il videogioco, i giochi di Giochi senza frontiere, sì, no? E infatti la domanda è: ma esiste il videogioco di Giochi senza frontiere? Ebbene sì, cioè, per quanto ma dai, per molti sia una cosa sconosciuta ai più, in realtà nel 1986 la Ocean Software in Inghilterra produsse con licenza ufficiale il videogioco ufficiale di Giochi senza frontiere. No! Aveva il nome inglese che è It's a Knockout, no? Che era, come ho detto prima, in Inghilterra. Che era una sorta di Summer Games. Praticamente era un gioco sportivo multievento, anche multiload, prodotto dalla Ocean nel 1986 per l'Amstrad CPC, per il Commodore 64 e per il Sinclair ZX Spectrum. I tre computer che nell'86 erano più diffusi in Europa e soprattutto in Inghilterra, dove era il centro di produzione europeo di videogiochi e uno dei maggiori centri mondiali di produzione di videogiochi era l'Inghilterra, certo, di quegli anni 80. Ed era proprio il gioco di Giochi senza frontiere, quindi erano sei concorrenti che potevano essere sei giocatori diversi, era un multiplayer che poteva giocare o da solo e gli altri erano controllati dal computer, o due o tre o quattro fino a sei, sì. Quindi sei persone che ognuno rappresentava un paese, che erano l'Inghilterra, la Germania, la Francia, l'Italia, il Belgio e l'Olanda. Quindi ciascuna nazione poteva essere controllata da un singolo giocatore, altrimenti se giocavano di meno gli altri venivano generati dal computer i punteggi. Vabbè, delle sì, squadre. Certo. automaticamente. Era un gioco multiload di cui vari giochi erano sei. Il primo era Bronte Bash, dove c'erano sei buche nel terreno e spuntavano delle teste di dinosauro, e dovevi manovrare una gru con un peso da una tonnellata che colpiva le teste di dinosauro. Poi c'erano Flying Flans, che c'erano dei budini lanciati al di là di un muro con traiettorie variabili, e il concorrente doveva prenderli al volo su un vassoio, ok? E quelli che cadevano a terra ti facevano scivolare e cadevi praticamente. Poi c'era Harlem Hoppers, dove delle palline che venivano fatte rotolare lungo la schiena di un dromedario, di un cammello, un dromedario, e andavano, venivano fatte rotolare sulla schiena del dromedario, dalla coda venivano sparate con traiettorie variabili, e anche in questo caso dovevi spostarti per prendere al volo le palline lanciate, no? Queste palline che venivano lanciate dal dromedario. Poi c'era Titanic Drop, dove ogni squadra si calavano da una nave appesi a una corda obliqua e bisognava sganciarsi nel momento giusto per cadere dentro i salvagenti. C'erano quattro salvagenti che dovevi centrare. Diet of Worms, dove il giocatore e il computer, ognuno controllava una gallina in un'aia isometrica e dovevano beccare dei vermi che spuntavano dal terreno per portarli. Vabbè, veramente un po' preso alla larga la fantasia di questo gioco. E infine l'ultimo evento era Obstacle Race, una gara di scorsa a scorrimento orizzontale, e bisognava anche qui, era proprio tipo Olympic Games, bisognava smanettare col joystick, okay, e saltare vari tipi di ostacoli. Era un gioco pensato. Senti, Veronica chiede se vai su YouTube e gli cerchi il link per vedere il video di sto gioco. It's a Knockout, lo cerchi, cerca It's a Knockout, lo trovi per Commodore 64, Sinclair, della Ocean 1980. Basta cercare It's a Knockout Commodore 64, sicuramente lo trovi. Insomma. Lo trovi. Grande. La cosa divertente, però, non è finita qua. Perché in realtà voglio ricordare una cosa, perché voi dite, voi tu te lo ricordi questo gioco, Simone? No, neanche no, assolutamente te, no. In realtà, molti italiani hanno giocato a questo videogioco. Perché vorrei ricordare che nel 1986 l'Italia viveva quel particolare momento quello delle cassettine. Esatto, della pirateria industriale, no? Per chi non sapesse di cosa sto parlando, andatevi a recuperare il video sul mercato del videogioco in Italia, che lo trovate sul canale di Archeologia Informatica, in cui descrivo cos'era l'Italia in quegli anni. Cioè, un disastro, però, aperta e chiusa parentesi. Ma in pratica cosa succedeva in Italia? Venivano pubblicati legalmente i videogiochi piratati e venivano quindi tradotti senza pagare i diritti ai legittimi detentori, produttori internazionali, e venivano ripubblicati in Italia spesso, anzi quasi esclusivamente, nel mercato delle edicole. Certo. Dove tu andavi in edicola, trovavi queste cassettine e dentro queste tipo cassettine l'idraulico, c'erano i giochi che venivano rinominati, sì. E Program, Special Program, Play Games, Special Play Games, Arcade, Special Arcade, ce ne stavano tantissime. Dovete notare come questo gioco è arrivato in Italia, perché ricordiamo, in Italia il mercato di videogioco c'era, era anche, produceva anche un sacco di soldi, solo che questi soldi finivano nelle mani di questi piratoni industriali e non nelle casse dei distributori, che quindi consideravano l'Italia un paese del terzo mondo perché non ci potevano guadagnare. E uscì proprio su Special Program per la prima volta nel dicembre del 1986, su Special Program numero 28, nella versione, la prima versione pubblicata fu quella per il Sinclair ZX Spectrum, e il videogioco fu chiamato Europe Games. Quindi X-Knockout iniziavano già a farlo diventare qualcosa di simile, okay. Giochi chiamarono Europe Games, Special Program 28, dicembre 86. In realtà nel gennaio 87 fu ripubblicato sempre per la versione Sinclair ZX Spectrum su una cassetta che si chiamava Linguaggio Macchina, con il nome di No Frontiers. Sempre nel gennaio 87 uscì anche su la cassetta Super C64 numero 8 del gennaio 87, chiamato Giochi Senza Frontiera, singolare. Sempre nel gennaio 87 sui Magnifici 5, non so come mai, fu pubblicato sempre in Xenocap, ma con il nome Allegoria. Non ditemi perché lo chiamarono Allegoria. Questo succedeva a gennaio dell'87. Andando avanti, a marzo su Special Games numero 11 fu sempre pubblicato, perché continuavano a copiarlo e ogni cassetta lo copiava in modo diverso, fu chiamato Combat Sport, ma il capolavoro assoluto lo fece Computing Videoteca. Era una cassettina, voi ricordate, queste cassettine avevano dentro 10, 12, 20 videogiochi, cioè più videogiochi mettevi più la cassettina attirava, no? C'era fuori il numero 20 videogiochi, 30 videogiochi a 8.000 lire, no? Tanto loro non costava niente mentre i giochi li copiavano, quindi non è che dovevano pagare più soldi o meno soldi, più giochi mettevano. Ma Computing Videoteca fece il capolavoro, perché cosa fece? Disse che c'erano 20 videogiochi dentro, perché in realtà mise due giochi multiload, di cui uno era It's a Knockout, chiamandolo Giochi di Primavera, ad aprile 87, dove divise ogni singolo gioco dandogli un nome come se fosse un gioco diverso. Infatti c'era Giochi di Primavera e in copertina c'era Torte Volanti, Tuffo in Mare, Corse e Ostacoli, Cammello, Vermicelli e Gioco Jolly. Vabbè, lo stesso, certo vabbè. I giochi che ho detto, perché non è che venivano solo presi, craccati e poi dopo magari cambia di nome, venivano pure tradotti in italiano, almeno. Sì, venivano tradotti i nomi, soprattutto i videogiochi. Perché? Perché il marchio del nome era l'unica cosa su cui, volendo, un produttore avrebbe potuto fargli causa, perché in Italia era riconosciuto il diritto di marchio, quindi tu potevi registrare qualcosa e dire questo marchio è mio, no? Se dici registro Donkey Kong, tu non puoi chiamare un gioco Donkey Kong, perché Nintendo ha registrato il marchio Donkey Kong. Ma se tu prendi il gioco e lo chiami il Gorillone, siccome non c'era il diritto d'autore ed editore sul software, il software non veniva protetto e quindi tu potevi venderlo legalmente in Italia senza avere alcuna ripercussione, tranne appunto i diritti di marchio. Vabbè, comunque, per concludere, a marzo dell'88 su Special Guest numero 11 viene finalmente pubblicato con il nome Giochi Senza Frontiere, quindi plurale, quindi siamo arrivati ad avere, era ora, grazie al cielo, insomma, originale italiano, anche se sembra comunque salto su, pubblicato su tantissime riviste, fino addirittura andò avanti pubblicazione su pubblicazione, fino addirittura a essere pubblicato nel febbraio del 92 ancora su Hit Parade C64 numero 64 quindi continuato a pubblicare questo gioco per anni, quindi in realtà sicuramente tantissimi italiani ci hanno giocato senza neanche sapere che fosse il videogioco ufficiale di Giochi Senza Frontiere. Ah, è vero, io ci ho giocato a Sbubbolone. sì, quello è il fatto. No, ma tu ci hai mai giocato a Blend Swats? No, non ci ho mai giocato. Ma era quel gioco che tu dovevi fare qualcosa? Ah, no, beh, io giocavo a un gioco simile, il gatto sul tetto. Sì, si chiama Gatto sul Tetto. Però, sì. Esatto. Perché così poi c'erano dei nomi, ovviamente noi siamo stati maestri sempre, esatto, con i titoli, incredibile la cosa. Vabbè, dai, ragazzi, per concludere con una cosa divertente e che non sanno in molti, insomma, su questa. No, io non lo sapevo, in effetti, devo dire la verità. No, non mi ricordo neanche di averci giocato. Io sto vedendo le immagini, non me lo ricordo proprio, però. Sì, un gioco pessimo, alla fine ebbe delle votazioni su riviste inglesi sotto zero, quindi però, c'è Vincenzo, diciamo, che dice: io non so più cosa sta succedendo nella live, io ho detto è diventata archeologia videoludica revivuz giustamente fatelo beve a Carlo, vabbè, dai, poi comunque fatelo a bere comunque, ragazzi, bella puntata, io ci tenevo molto, come ho detto, appunto, mi fa piacere di questa cosa. Vi ricordo però, prima di salutare i miei ospiti e tutti quelli che sono in diretta, che sera alle 23 torna Runtime by Night, dove parleremo dei Natali da incubo, ragazzi, le notti di Natale da incubo, ragazzi, cioè ognuno di noi ha sicuramente passato il peggior Natale della propria vita, tagliate mentre si tagliava il torrone, sì, cose, no, ma non tanto horror, proprio, cioè, nel senso, quel Natale che ha ricordato, dici, ma che Natale di merda che è stato quell'anno lì, cioè, tipo il cellulare nel water, è andata via la corrente dalle 10, tipo mi avevano appena regalato l'UFO robot con de ferro, col Goldrick che entrava dentro all'UFO, si incastrava e tutto quanto, mio cugino me lo fai vedere, lo spacca in due ed era pure de ferro, capito? Cioè, e appena scartato una cosa, cioè, e poi tu ti dici qual è il tuo peggior Natale, quindi oppure volevo il Commodore 64, apri c'è una scatola che sembra e dentro c'è un paio di pantaloni no, come Alex gli hanno regalato la MSX, no? No, io da quel punto di vista devo dire che sono sempre stato accontentato, io volevo il VIC-20 e mi è arrivato il VIC-20, poi quando ho capito che il VIC-20 non faceva quello che facevano vedere sulla pubblicità, volevo il 64, l'hanno regalato il 64. Però diciamo che in generale, ecco, domani sera alle 23 chi vuole partecipare, proprio vuole proprio partecipare a stare in diretta con noi, non solo a commentare in chat, ma vuole far parte della trasmissione, lo può dire tranquillamente e ci fa piacere, insomma, che ci organizziamo e facciamo una bella puntata. Voi sapete che Runtime by Night è il posto dove la gente viene a chiacchierare, insomma. E sabato mattina alle 8:30 io e Michele apriamo, insomma, il sabato con il nostro appuntamento solito di Disordinati Informati. Parleremo un po' anche di questa cosa della fusione nucleare, insomma, delle nuove energie, del mo distruggiamo il mondo oppure andremo su altre galassie, chi lo sa, insomma, perché questi sono quei step evolutivi importanti che prima o poi succede qualcosa. E domenica alle 16 vi ricordo che potete stare in diretta con noi durante la finale Argentina-Francia, dove parleremo di tutto, di Argentina e di Francia, tranne che dalla partita, chiaramente, perché noi, sapete, facciamo sempre queste contro dirette, queste contro telecroniche di quello che succede negli eventi importanti del calcio. Detto questo, vi saluto, Davide Gatti. Buon saluti a tutti, grazie per essere stati qua con noi. Vi ricordo, così sempre sul lateralmente, l'avevamo detto all'inizio, ma lo diciamo anche alla fine per chi magari è arrivato dopo. Io sarò in live sabato o domenica, adesso vediamo, nel fine settimana, dove vedremo degli altri pacchi. E ringrazio tutti per l'affetto dimostrato sia come Survival Hacking sia come quando eravamo Future Runtime Radio tutta. Scusa, però calcio Budrillo non l'ho mai sentito. Yeah. Budrillo è Deborah che ha scritto in chat. Un mio amico aveva un gioco che in italiano lo aveva come titolo Calcio Budrillo. Sì, perché i budrilli sono i ciccioni, i budrilloni, cioè. Comunque Carlo, tu che sei esperto di ste robe, un giorno una collezione di nomi doc dovresti tirare fuori. Sì, sì, la tiro fuori sicuro. Facciamo una puntata speciale sui nomi assurdi. Sì, sarebbe carino. Quindi vi ricordo che nel fine settimana su Survival Hacking Davide sarà in diretta e poi ci farà sapere, seguitelo nei suoi social, quindi Instagram, Facebook, ovviamente anche su Telegram, cercate Survival Hacking e lo trovate, e poi andate su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitelo, fate like, condividete, date la mano al canale a crescere, così come dovete fare la stessa cosa anche per il canale di Archeologia Informatica, e domani sera alle 21 pubblichiamo un nuovo video, giusto Carlo? Esatto, domani sera un nuovo video molto interessante, in realtà sarà il piccolo reportage dell'esposizione di Brusaporto dell'edizione di quest'anno, ma che avrà delle particolarità molto molto rare in visione, cose sconosciute ai più, tra cui anche un modello di Commodore Amiga che credo non conosca praticamente nessuno. È un modello, un prototipo, ovviamente presentato dal nostro mitico Roberto Tomaiolo, che possiede la qualunque, insomma. Infatti il titolo della cover si chiama quel misterioso Amiga che Amiga non è. Insomma, esattamente, quindi, esattamente. Domani sera alle 21 sul canale di Archeologia Informatica esce il video, poi ve lo vedete. Ringrazio quando tutti, anch'io, anche per i numerosi iscritti che stiamo ricevendo in queste ultime settimane, cui finalmente iniziamo di nuovo a pubblicare dei video in maniera quasi costante, diciamo, sì, sul canale di Archeologia Informatica. Tutto merito mio, naturalmente. Esatto. grazie ovviamente no, vabbè, grazie pure a chi li produce i video. Va bene ragazzi, grazie a tutti. Questo è Quando Eravamo Futuro. Vi ricordo che fra due settimane torniamo con i giochi di Natale degli anni 70 e 80. Buonanotte. Buonanotte.